voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Riccardo Pasqua, tre generazioni per quasi 100 anni di vini, di Alessandra Scaglioni. La storia d'impresa che vi raccontiamo oggi parla di vino. Inizia nei primi decenni del Novecento con un vino che viene dal sud ed un'osteria a Verona, ma che arriva molto lontano. È una storia che ci racconta l'amministratore delegato dell'azienda, Riccardo Pasqua. Mio nonno venne dalla Puglia per fare il servizio militare a Verona e ha avuto l'intuizione, tra virgolette, allora di importare i vini della sua terra, dalla Puglia, a Verona. Ed è stata una buona idea perché allora il vino era completamente diverso dal punto di vista organolettico, ma il vino che veniva dal sud aveva già più corpo, era più strutturato, più ruffiano, perché ovviamente da terre maggiormente esposte al sole le uve davano dei vini più potenti, e quindi portare i vini del sud al nord è stata una specie di innovazione, e ha avuto un buon successo con questa idea e ha avuto l'opportunità di acquistare una piccola osteria nel centro di Verona dove serviva questi vini importati, tra virgolette, dalla sua terra madre, dalla Puglia. L'osteria ha successo, ne vengono aperte altre sino ad arrivare a 10. E nel 1925 l'attività della famiglia si allarga, si inizia la produzione del vino, nascono le cantine Pasqua. Le cantine Pasqua aprono le porte nel 1925 all'interno di un vecchio convento nella zona est della nostra città di Verona. E quindi questo, diciamo, è l'inizio della storia. La produzione si sviluppa e l'azienda cresce. Arrivano investimenti in nuovi vigneti e un impianto di imbottigliamento. Arriva in azienda la seconda generazione, i fratelli Carlo, Giorgio e Umberto, che puntano da subito sulle potenzialità dell'export, mentre anche la produzione cambia per adattarsi al mercato. Devo dire, la seconda generazione ha avuto il merito e l'intuizione di capire la potenzialità del vino italiano e all'estero, e di capire che tanti paesi con una popolazione italiana molto importante, vedi Germania, Inghilterra e poi ovviamente America, erano pronti per importare i vini e le produzioni italiane. Siamo alla terza generazione, entrata in azienda con un passaggio di consegne che si è perfezionato proprio con l'attribuzione della carica di amministratore delegato a Riccardo Pasqua. Il padre Umberto è presidente, poi c'è Alessandro, fratello di Riccardo, i cugini Cecilia e Giovanni Nordera. E anche per la terza generazione ci sono sfide aperte, qualcuna vinta, altre da affrontare. La sfida della terza generazione è stata quella di rendere la nostra azienda ancora più internazionale, e mi riferisco non solo a crescere il nostro mercato export, ma diventare un player presente con una subsidiary di proprietà nel mercato estero, e mi riferisco in particolare a un progetto che ha cambiato le sorti della nostra azienda, che è stato quello di Pasqua USA. Il 2009 è un anno che segna una svolta. Pasqua guarda all'estero anche in un altro modo, decidendo di andare sul mercato USA con una propria società. L'idea è stata quella, andiamo noi sul campo, apriamo la nostra società, invece di affidarsi al classico importatore che va benissimo, però è molto geloso dei suoi clienti, dei suoi contatti, e perciò ti lascia un po', come dire, a parte sulla scelta delle strategie e di come aggredire il mercato. Quindi mi sposto negli Stati Uniti con la mia famiglia e apro Pasqua USA per iniziare a importare il nostro vino. Pasqua USA è controllata al 100% dalla casa madre italiana. E una volta che sono arrivato lì ho detto ok, adesso ho 50 mercati stati da riempire, come faccio da solo. Allora ho conosciuto una famiglia cilena molto carina, con dei valori molto simili alla nostra, che ha fatto la stessa cosa 10 anni prima, e ci siamo trovati bene, c'era un'ottima chimica attorno al tavolo, abbiamo detto collaboriamo insieme, contribuiamo insieme alle spese per costruire una rete di venditori dislocati in tutti gli Stati Uniti, in modo da essere più efficaci nel penetrare il mercato. I risultati arrivano e sono significativi, anche se la scelta non è facile, perché comporta il trasferimento per diversi anni negli Stati Uniti di Riccardo Pasqua e della sua famiglia. E perché il mercato americano non è semplicissimo da affrontare. Se fosse stato facile non ne parlerei oggi con questo orgoglio e passione. No, non è stato facile. Il mercato americano è il più competitivo del mondo, tutti vogliono esserci perché come dicevo prima, il mercato più grande e il mercato più profittevole del mondo, e quindi è stato una bella sfida, è stato un sacco di lavoro, però il bello degli Stati Uniti è che la meritocrazia, se tu lavori e dai tutto avrai il tuo payback, questo devo dire da expat lo confermo, e devo dire gli Stati Uniti, do grande merito agli Stati Uniti per questo. Quindi no, non è stato facile, siamo partiti praticamente da zero e in 6 anni abbiamo aperto 47 stati su 50 per un valore complessivo, parlando di business, di 13 milioni di euro di fatturato su un totale aziendale di 41. A Vinitaly è stato presentato un nuovo prodotto pensato proprio per seguire queste strategie, che vede unite due famiglie imprenditoriali venete. Nella nostra cantina in Valpolicella abbiamo lanciato un nuovo progetto fantastico che parte da una collaborazione con un'altra famiglia veronese che opera in un altro settore ma appassionata di vino da generazioni. Abbiamo lanciato questo progetto di eccellenza che si chiama Mai Dire Mai, ed è un progetto che nasce da un vigneto incredibile. Anche il nome viene anche da questo, cioè mai avremmo pensato di trovare oggi che la Valpolicella è una delle zone più vocate, più cool, più richieste non solo d'Italia ma del mondo, un terroir così eccezionale, ma l'abbiamo trovato, mai dire mai, quindi niente impossibile, e questa è un po' la nostra filosofia. E quindi ci divertiremo un sacco con questo progetto, siamo gasatissimi. L'altra famiglia si chiama Dal Colle, è una famiglia che opera nel settore agroalimentare, che aveva questi vigneti da 40 anni e quindi ci siamo messi insieme. Questi vigneti sono nella Valpolicella orientale, in un paese che si chiama Illasi, e sono perfetti, 350 metri di altitudine, esposizione sud-est, densità altissima, abbiamo quasi 10.000 vigne per ettaro, quindi vini con una grandissima estrazione, molto potenti, molto importanti, ma con una grande mineralità, quindi una grande eleganza. Quindi famiglia Dal Colle, famiglia Pasqua si mettono insieme per fare questo prodotto che speriamo sarà leggendario, noi ci crediamo molto. Fatturato in crescita, conquista di mercati internazionali e radicamento nel mercato italiano, ricerca di nuovi prodotti e conquista di nuove fasce di consumatori sono le direttrici per i prossimi anni. E innanzitutto il fatturato 2015, 41 milioni di euro, ma la cosa interessante è che nel 2014 ne abbiamo fatti 34,7, quindi è stata una crescita notevole e confermata anche nel 2016, perché il primo trimestre 2016 ha chiuso a più 21% contro un primo trimestre 2015 che aveva già registrava già delle crescite importanti. Crescere all'export ci aiuta a generare le risorse per continuare a investire in qualità, per continuare a investire in distribuzione, Non le nascondo che mi piacerebbe replicare il modello USA anche in altre zone del mondo. Adesso abbiamo una voglia pazzesca di dire la nostra nella ristorazione di qualità, nella ristorazione stellata, e infatti il progetto Mai Dire Mai è orientato a questo. Però strizzando l'occhio a una generazione di consumatori, una nuova generazione di consumatori, vedi i millennials, famosi millennials, quindi cercando di entrare nei loro cuori, nei loro porte con delle idee un po' innovative e disruptive, come diciamo in America. Vedi il nome Mai Dire Mai, che sicuramente è divertente e facile da ricordare. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.